Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Metri, un metro in basso, tre in avanti. 70 secondi. Luci in funzione. Avanti. 4 avanti. Andiamo un po' a destra. Solleviamo polvere. 23 metri. Luce di contatto. Ok, motori fermi. Sono certo che vi rendete conto del gravissimo potenziale di shock culturale e di disorientamento sociale insito nell'attuale situazione. Stai parlando della missione Rosetta? Oggi pomeriggio, intorno alle 16, si saprà se la missione Rosetta andrà a buon fine. Cioè se la sonda, dopo 10 anni di viaggio, a 450 milioni di chilometri dalla Terra, riuscirà ad atterrare sulla cometa e se le attività previste saranno possibili. Rosetta è una missione eccezionale, un viaggio verso l'ignoto che potrebbe essere un passo importante nella conoscenza del Sistema Solare. Questa avventura spaziale meravigliosa, molto italiana, può essere seguita in streaming dal sito dell'ESA. Amalia Ercoli Finzi, professore ordinario di meccanica orbitale al Politecnico di Milano, è la madre della missione Rosetta. Ma madre perché? Effettivamente io sono madre dello strumento che sta scendendo sulla cometa, perché mi sono sempre interessata della missione e comunque so tutto della missione. Il mio scopo però era quello di occuparmi di questo strumento. Ecco, infatti lei è l'ideatrice del trapano, no? Che dovrà perforare la superficie della cometa. Ho la responsabilità scientifica del trapano, il quale ha questa destinazione che è assolutamente una cosa eccezionale. Noi siamo tenuti a perforare il suolo della cometa e a proporre agli strumenti che ci sono sul lander, sul file, il materiale che abbiamo raccolto in modo tale che essi possano essere analizzati. Ma voi sperate di trovare che cosa? I mattoni della vita, dottoressa Finzi? Noi speriamo veramente di trovare questi famosi aminoacidi sinistrosi che sono quelli che sono la base della vita. Scusi, i campioni verranno esaminati sulla cometa? Assolutamente sì. Ma come si fa a esaminare sulla cometa? Sul file ci sono una serie di strumenti, spettroscopi, analizzatore sia nel visibile che nell'infrarosso, i quali analizzeranno i volatili, cioè gli elementi che noi abbiamo creato a partire dai nostri campioni riscaldandoli. Cioè il trapano raccoglie con un sampling tube, raccoglie il materiale, lo offre a questi fornetti nel quale li pone e li scalda. Si figuri che li scaldiamo a 800 gradi e siamo sulla cometa dove fa freddo. E come fate a portarla fino a 800 gradi? Abbiamo delle resistenze che li portano a queste temperature. Quindi mi scusi, io sono ignorante. Voi trapanate la cometa? Sì, signore. Fino a una profondità di? Di circa 20 centimetri. Ma questo trapano come è fatto? È una trivella analoga a quelle che si usano anche sulla Terra e però ha due grandi particolarità. Uno, che i taglienti sono di diamante, proprio per essere in grado di trapanare qualsiasi tipo di suolo cometario noi troveremo. L'altra, che è dotata di un dispositivo che si chiama sampling tube, il quale è destinato a raccogliere una parte del campione. Ma è stato difficile da progettare, da costruire? Assolutamente sì. Perché? Dove è stata la genialità, diciamo così? La genialità è stata di poter far lavorare questo strumento in condizioni assolutamente eccezionali. Intanto lo strumento sta viaggiando da oltre 10 anni. Continuiamo effettivamente a verificarne l'operabilità anche da quando si è svegliato. Quindi lo strumento è in grado di far ruotare e far abbassare il trapano, raccogliere i campioni, portarli sopra ad ogni fornetto. Professoressa, lei dice svegliato perché l'avete tenuto dormiente per 10 anni. Oltre 10 anni. E quando l'avete svegliato? Un'emozione tremenda, forse poteva essere rotto. A me sembrava di essere là nello spazio nel momento in cui lo svegliavamo e mi veniva voglia di dire svegliati che siamo arrivati. In realtà adesso ho la stessa emozione in questo momento. Nel frattempo, in questi anni che passavano, lei ha allevato 5 figli, 6 nipoti, un marito, un cane. È stato facile? Più facile quello o più facile il trapano? In realtà è stato complesso, però nella vita bisogna fare proprio le cose impegnative, le cose difficili, sono quelle che danno un senso alla vita. E mi creda, io della mia vita sono assolutamente soddisfatta. Ah, questo si capisce dalla voce, professoressa. Senta, lei ha detto in un'intervista che ho sentito che gli uomini sono cavalli da trotto, le donne da corsa. Perché? Perché noi abbiamo qualche cosa in più. Intanto, una cosa che ci contraddistingue, noi abbiamo un'intelligenza emotiva, quindi la capacità di vedere all'interno delle situazioni quelli che sono i punti nodali e che tante volte sfuggono alla logica, perché non sono sempre dominati dalla logica. Vabbè, però non è che solo le donne hanno l'intelligenza emotiva. Io direi che però abbiamo un tale allenamento per cui la grandissima parte delle donne ha questa capacità. Però ha detto, gli uomini sono cavalli da trotto e donne la cosa, però chi va piano va sano e va lontano, quindi... Ma direi che noi siamo andati piano per troppo tempo, questo momento per noi è il quindi galoppo adesso, va bene. Professoressa, oggi pomeriggio comunque nella base spaziale di Darmstadt conoscerete gli esiti di questo decennio di lavoro, una gran paura. 15 anni di lavoro, emozione. Emozione. Questa è veramente emozione che si può toccare con le mani. Ma quale sarà il segno della riuscita delle operazioni? Cioè cosa capita? Un messaggio che ci arriva dalla sonda, dalla parte che è arrivata sulla cometa, la quale ci dice che la file ha toccato il suolo. Quanto tempo ci mette? Cioè quanto prima ha toccato il suolo di quando arriverà il segnale? 28 minuti e 20 secondi, il tempo che è necessario per trasmettere il messaggio dalla cometa fino a Terra, e quindi saranno i 28 minuti. E vi dirà abbiamo toccato? Sì, in quel momento avremo toccato, a questo punto noi cominciamo immediatamente a lavorare, una volta però che abbiamo verificato come è sistemato il lander, cioè il veicolo che è sceso sulla cometa, perché non basta arrivare sulla cometa, bisogna arrivarci bene, cioè dobbiamo avere un assetto tale per cui l'illuminazione è sufficiente e la condizione per trasmettere il messaggio c'è. E a che velocità atterra il lander? A circa un metro al secondo, quindi è una bassa velocità. Ma quanto è grande sto lander che atterra? E dunque il lander in totale pesa circa 100 kg, non arriviamo al metro, no, come dimensione trasversale, quindi questo è... e siamo tutti coperti di celle solari, delle quali sempre io ho la responsabilità del funzionamento, e siamo coperti di celle solari progettate in una maniera assolutamente straordinaria, sono le cosiddette LA e LT, cioè progettate dove? Progettati in Italia. Dove? Dunque sono qui, diciamo nella zona milanese, cioè qui nelle, in questa zona, e sono la low intensity, bassa intensità, bassa temperatura, è una condizione speciale in cui noi siamo tenuti a lavorare. Tanti auguri, incrociamo le dita. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, arte. L'idea del genio incompreso che si consuma sulla tela in una cantina è una favola deliziosamente insensata. Vita d'artista, simile ai folli, sempre nel dubbio che a volte sciogli come aspirina la vecchia tisana, vivere d'arte. Che vita da... Signor Pollock, secondo lei qual è il significato di arte moderna? C'è molta serenità che emana da questo dipinto, ma anche una certa violenza. Io lo trovo toccante. Quelle due macchie rosse su un fondo bianco. E quanto costa il toccante? Credo 30.000 euro. E Gold vendono due dipinti da Sotheby. Se mi avessero lasciato vendere il loro stramaledetto Mondrian, ora non dovrebbero vendere la collezione. Io voglio andare da Picasso. Voglio chiedergli di mettere i quadri di Modia accanto ai suoi alla nuova mostra. È impossibile! Poi Modia mi uccide se sa che faccio una cosa del genere! Se Modia potesse esporre insieme a Pablo, forse venderebbe qualcosa. L'arte ha bisogno di circolare. Tutto ha un prezzo. Driss, mi dica, secondo lei, perché la gente si interessa all'arte? Non lo so, è un business. No, perché è la sola traccia del nostro passaggio sulla Terra. Domenica scorsa è finita Artissima, la fiera di arte contemporanea nota in tutto il mondo che si svolge a Torino. Quest'anno ha registrato un aumento del 10% degli ingressi e i collezionisti presenti a Torino sono aumentati del 30%. Nel frattempo le case d'asta tornano a fare notizia, con vendite record come un Giacometti battuto per oltre 100 milioni di dollari a New York e una testa di Modigliani per oltre 70 milioni di dollari sempre a New York. Il sistema dell'arte contemporanea ha molti protagonisti, oggi vogliamo presentarne qualcuno. Ecco, l'avvocato Fulvio Gianaria, presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino per l'Arte. Negli ultimi 10 anni, voi della Cassa di Risparmio per l'Arte, avete acquistato 740 opere per un totale di 36 milioni di euro di investimento. Una manifestazione come artissima, che tipo di ricaduta ha sulla città? Molto importante. Perché? Molto importante perché arricchisce proprio la cifra di internazionalizzazione della città, a parte che un euro speso e investito in artissima rende 5 o 6 euro, perché vuol dire voli aerei, vuol dire ristoranti, vuol dire dal punto di vista eccetera. Diciamo della comunità, dice, certo, cioè c'è un indotto molto forte, molto, ecco, indubbiamente forte. Come scegliete le opere? Allora, il meccanismo intanto c'è una caratteristica molto particolare. Noi scegliamo le opere, le acquisiamo e poi le diamo, è una collezione privata a disposizione del pubblico, nel senso che queste opere vanno alla GAM e al Castello di Rivoli, che incomodato le possono utilizzare per integrare le loro collezioni e metterle a servizio della comunità. Ecco, avvocato Giannaria, ma c'è un indice che dà il valore, un indice che voi seguite nel comprare queste opere? Noi le opere le scelgono i direttori dei musei, poi le sottopongono sia come valutazione, diciamo così, critico, estetica, sia anche come congruità del prezzo a un comitato scientifico che è composto dal direttore della Tate, dal direttore del Reina Sofia e dall'amico Rudy Fuchs dello Stedelijk, che fu uno dei fondatori del Castello di Rivoli. E quindi diciamo c'è una valutazione complessiva, sì, su certo questo. È che sono valutazioni che spesso usano degli indici di riferimento che sono alla conoscenza di questo comitato rispetto al mercato delle gallerie. Ecco, ma il mercato chi lo fa, avvocato Giannaria? Il mercato lo fanno in parte le gallerie, molto le aste, certo. Il fatto è che i risultati sono spesso, noi abbiamo una fluttuazione del mercato nel senso molto che, alta. Eh sì, anche perché adesso sono arrivati collezionisti cinesi o certo, che hanno cambiato il mercato. Secondo me vi sono degli aspetti e dei momenti in cui vi viene gonfiato, perché spesso le valutazioni non sono cioè tante. Ci sono bolle speculative alte, forti, avvocato Giannaria, sul... Ma anche perché vi sono acquisti che sono dettati, come dire, da un bisogno di immagine più che da un reale bisogno, da una reale valutazione. Ma quindi lei potrebbe dire lo subite o lo fate il mercato? Sostanzialmente lo si subisce, con un mercato che è sempre più divaricato, nel senso che vi sono 10 giorni fa a Parigi una grande casa d'asta ha fatto 15 milioni di euro come aggiudicazioni, e dunque paradossalmente c'è un mercato ricco, sempre più ricco, e un mercato medio-basso sempre più affaticato. Avvocato Giannaria, lei dice che l'arte contemporanea è un fattore di sviluppo e di innovazione per la comunità di appartenenza, nel suo caso Torino, ma come? L'arte contemporanea utilizza dei linguaggi, dei modi non omologati che creano innovazione anche al di fuori del suo campo. Mi fa un esempio? Se io vedo leggere la realtà con linguaggi e con tecniche che sono fuori dall'usuale, mi può venire un'ispirazione anche per un'innovazione che non è stretta che legata al campo dell'arte, ma anche al campo del manifatturiero, anche della progettazione di altro. Ma ci sono benefici fiscali per le aziende che investono? Beh, adesso con la recentissima legge Franceschini, in effetti è la prima volta in cui nel nostro paese ci si avvicina un po' al modello americano, che è un modello straordinario, perché in effetti non è un caso se le grandi fondazioni americane hanno molto patrimonio, perché gli investimenti dei privati sono deducibili, insomma. Cioè, quindi anche i privati, ci sono benefici fiscali per le aziende e per i privati? Sì, adesso sì. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Ecco, ma se i falsi sono anche loro una consuetudine comunque nel mondo dell'arte, potrebbe accadere con maggior facilità con le opere d'arte moderna e contemporanea, come questo episodio che forse ricorderete, passato agli annali della cronaca. Dunque la leggenda era vera. Le sculture giovanili di Amedeo Modigliani sono state restituite dal fango dei fossi di Livorno dopo 75 anni. In un paio di pomeriggi di lavoro siamo riusciti a produrre un'opera che poi alla fine pare non essere stata così mal giudicata da tutto il pubblico. La mattina dopo, torno alle 10, passo, sento un gran fermento, mi fermo, domando a una signora... E questa, molto emozionata, visibilmente sconvolta, hanno trovato una testa, hanno trovato una testa. Dopo pochi giorni dal ritrovamento, prima ancora delle analisi scientifiche, arrivano i giudizi dei più insigni storici dell'arte. Il primo a vedere le teste è Cesare Brandi, ordinario di storia dell'arte all'Università La Sapienza di Roma, che esclama: «Sono di Modigliani. Hanno una luce interiore. In quelle due scabre pietre c'è l'annuncio, c'è la presenza». Gli fa eco Carlo Ludovico Ragghianti, docente di storia dell'arte alla Normale di Pisa. Queste opere, oltre ad essere commoventi, anche per la subitaneità della loro apparizione, sono fondamentali per Modigliani e per la scultura moderna. Chiude il coro il più famoso di tutti, Giulio Carlo Argan. Una di esse, più elaborata, mostra finezze di segno e di taglio che sono inequivocabilmente di Modigliani. Signore e signori, buonasera, eccoci qua con lo speciale di TG1 dedicato, come vi abbiamo ripetutamente annunciato nel corso della giornata, alla burla di Livorno. Sotto i riflettori della RAI, i ragazzi protagonisti dell'evento appaiono rilassati e sicuri di quello che fanno. Man mano che il martello scolpisce il volto di pietra, ogni residua tensione si scioglie. Dopo lo speciale TG1 non c'è più dubbio. Luridiana e compagni sono davvero gli autori della testa cosiddetta il Modi 2. È una burla fantastica stata, questa dei ragazzi di Livorno che hanno buttato nel canale le teste di Modigliani e vengono riconosciute. E tra tutti quei venerandi Soloni che abbiamo ascoltato, fortunatamente viene in soccorso invece alla verità del varietà e quindi della beffa un Achille Bonito Oliva che, forte di Totò, può assumere su di sé il fondamento di giudizio estetico di Totò, lo ricorderete, quando disse: questa è un'imitation de Picasso, merita un premion, uno sputacchione. Mario, grande questo scherzo, sì, è stato fantastico. Mi riflettevo sul fatto che è stato detto, no, che si subisce il mercato dell'arte. Sì. Credo che sia così. Sono quotazioni pazzesche, infatti, fantascientifiche, infatti, non stanno né in cielo né in terra. Infatti Lavinia Filippi, che è una giornalista d'arte, Sotheby's ha battuto all'asta, l'abbiamo detto in apertura, una TED di Modigliani per oltre 70 milioni di dollari. Ecco, come si fa a essere certi che non sia di nuovo un falso? Allora, non si può avere la certezza in realtà, però credo che non converrebbe a Sotheby's far parlare di sé per la vendita di un falso. Beh, ma anche l'altra volta tutti dicevano che era vero e poi invece era falso. Sì, ma i controlli di Sotheby's sono molto molto accurati, studiano in particolare la provenienza, eccetera. Cioè, c'è da fidarsi, lei dice. Sì, io credo di sì. Sì. Credo che i falsi oggi siano di altra natura in realtà. Di che natura sono? E i falsi oggi sono degli artisti costruiti a tavolino, con le case d'aste, i collezionisti appunto, i galleristi, tutte persone che vogliono, diciamo, fare affari. Quindi, cioè, i galleristi sostanzialmente, lei dice, sono disposti a tutti per fare affari? Beh, non tutti. Io sto parlando di un'aristocrazia, se non addirittura di un monopolio, insomma. Sono molto... I galleristi, poverini, alcuni stanno soffrendo molto della situazione, anzi. Dottoressa potenti. Filippi, il monopolio da parte di chi? Di artisti molto potenti, per esempio l'americano Gagosian oppure White Cube di Londra. Diciamo, sono gallerie che hanno il potere di influenzare il mercato, che sono capaci di decidere un artista, un nome o più di un nome che deve diventare famoso per forza. Cioè, un po' sono un po' le anime nere dell'arte contemporanea? Ma sì, diciamo, appunto, non tutti i galleristi poverini, ma questi qui in particolare un po' sì, perché arrivano a influenzare anche l'artista stesso, perché ovviamente mettono delle pressioni enormi e quindi distruggono anche un artista. Ma quali sono le bolle più clamorose che le vengono in mente, cioè nella costruzione di queste situazioni? Beh, negli ultimi anni si è parlato molto del caso di Damien Hirst, che era appunto un artista inglese che è stato molto pompato e sostenuto, e poi, diciamo, in un certo modo lui si è distrutto con le proprie mani, è diventato un po' vittima di questo suo successo. Sì, quindi lui è un caso importante. Adesso ultimamente qui a Londra si parla di Tracy Emin, che è un'altra artista sempre del Young British Young British Artists, questo gruppo creato qui a Londra negli anni 90, che è diventato famoso negli anni 90. E anche lei, diciamo, la stanno criticando, dicono che è volgare, che le sue opere non sono poi così profonde, e quindi non so se anche lei verrà distrutta. Senta, ma in Italia nessuno? Ma in Italia ci sono, diciamo, non si spendono così tanti soldi per l'arte contemporanea, non ci sono questi affari clamorosi, insomma, diciamo. Sì, no, non ce ne sono. Ci sono molti artisti che vivono, che continuano a fare mostri, che vanno avanti nella carriera appoggiati da conoscenze, però diciamo sono abbastanza innocui, perché non vanno a finire nelle grandi collezioni o all'asta. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, SMS. Abbiamo Paride da Livorno. Paride, buongiorno. Buongiorno Minoli, buongiorno, sto ascoltando e volevo dire velocemente, in modo che non faccio perdere tempo, il problema è che i critici, cioè quelli che vanno... Lei cosa fa, il pittore? Lei fa il pittore? Sì. I critici? I critici non vivono, non vanno negli studi e vedono tutto il percorso di questo pittore. La maggior parte di noi pittori, dobbiamo metterci con la nostra borsetta, fotografie, eccetera, accorgergli dietro, aspettarli, chiedere al professore se può venire a vedere, eccetera, eccetera, qualcuno si fa pagare e insomma le cose... Quindi si è modificato il rapporto, diciamo, con l'artista. Ah. Una volta i grandi... Guardi, c'è una cosa adesso, che in una situazione come questa, sentivo prima che parlavate di Modigliani, chi è quello che può scoprire Modigliani? Un pittore che faceva i ritratti in un momento in cui, fatti anche male sotto questo aspetto nel pensiero del 1912... E adesso viene riscoperto e detto che è l'arte moderna. E qui, se non vivi insieme al pittore, ce n'è da fare. Va bene, grazie. Patrizia Sandretto Rebaudengo è la fondatrice e presidente dell'omonima fondazione, tra le 100 donne più influenti nel mondo dell'arte contemporanea, secondo la rivista Artnet di New York. Ecco, che cosa deve esprimere, secondo lei, l'arte contemporanea per essere... L'arte così. Contemporanea è l'arte del presente, quindi un artista, a parer mio, è di qualità se è preciso rispetto al tempo in cui viviamo e sa raccontarci quello è il momento in cui viviamo. È un'arte che ci parla dell'oggi e quindi ci parla di tutte le criticità, le difficoltà del vivere di oggi, certo. Ma non sempre, alcune volte anche un'arte ottimista. Dottoressa Sandretto, c'è stata artissima a Torino, c'era questa arte? Era presente? Sì. Ad Artissima l'arte c'era. Artissima è una fiera che pian piano, anno dopo anno, è diventata importante proprio perché è una fiera di ricerca, è una fiera dove tu vieni e trovi delle proposte. E che cosa nuove. L'ha colpita di più di Artissima quest'anno? Mi ha colpito questa riscoperta in Back to the Future di tanti artisti invece più grandi, magari non riconosciuti negli anni passati per la loro capacità. Mi fa un nome? E che oggi ritornano. Krasinski è il nome di un artista polacco nello stand di Foxhall Foundation, è un artista ormai non è più in vita, ma è un artista che ha un'energia, dei colori, una forma. Beh, quindi il futuro nel passato oggi è d'Artissima. Anche, non solo, questa è una sezione molto interessante, ma anche le proposte contemporanee sono davvero molto interessanti. E di quelle contemporanee che cosa l'ha colpita di più, dottoressa Rachel Sandretto? Rose. Un artista in una galleria francese con un video bellissimo. Io sono convinta che quest'artista, giovanissima all'inizio della sua carriera, con questi video, con questi suoi lavori anche performativi, nei prossimi avrà anni successo. Sarà interessante, ecco, ne sentiremo parlare, direi. Dottoressa Sandretto, che cosa determina la riuscita di un artista? La sua capacità di leggere il presente e di saper anticipare il futuro. E quanto contano i galleristi nel costruire il successo contano. Di un artista? I galleristi contano. Quanto? I galleristi sono dei talent scout, sono loro che vanno dall'inizio, di solito nelle scuole, nelle accademie, vanno a cercarsi gli artisti. Naturalmente, ma quanto costano? Quanto contano nella costruzione del loro successo? Io credo che almeno il 50% dell'artista lo deve al suo gallerista, forse anche qualcosa in più. E chi stabilisce i prezzi delle opere d'arte? Beh, oggi è il mercato che fa i prezzi, sono anche le case d'asta. sono i, ovviamente i galleristi che sostengono il mercato, tutto ovviamente è una grande catena. Il mondo ma è una dell'arte. Grande catena chiusa o aperta? È una grande catena aperta al mondo, ma nella quale tutti quelli che sono gli attori, i protagonisti, sono tutti importanti perché tutti determinano la riuscita, ma il successo di un artista. Esistono, dottoressa Sandretto, sì, dei canoni di bellezza oggettivi nell'arte contemporanea, non credo? No, oggi non parlerei più di bellezza, ecco, io penso che l'arte contemporanea non è da valutare sul bello. E come è da valutare? Io guardi, un artista non penso mai se funziona come arredamento di una casa, un artista deve avere anche qualche messaggio politico, sociale, deve anche parlarci. Sto guardando molti artisti brasiliani interessanti, come Adriano Costa, come ho detto Rachel Rose è un artista senz'altro da guardare. E di italiani? Beh, gli italiani sono bravi e fanno fatica. E oggi su chi punterebbe lei? Oggi bisogna guardare, comunque io continuo a guardare agli artisti più grandi, quindi a Diego Perrone, a Patri Tuttofuoco, a questa generazione che comunque ha ancora bisogno di esprimersi, ha ancora bisogno di avere opportunità per farsi conoscere. E perché fanno fatica quegli italiani? Il primo museo a livello nazionale di arte contemporanea l'abbiamo aperto nel 2009, il Maxi non ha tanti anni di vita, quindi certo, siamo stati per molti anni senza dei veri musei. Noi siamo stati molto fortunati perché abbiamo, noi intendo noi torinesi, perché abbiamo avuto Rivoli, certo, che Rivoli è stato per molti anni l'unico museo d'arte contemporanea in Italia. Qui sono state anche delle fondazioni come la mia, come ma la come sua, tante altre che hanno affiancato il museo di Rivoli. Abbiamo fatto credo un lavoro interessante e importante, molto. Ovviamente è mancato un museo a livello nazionale. Mix 24. Scende ruzzolando dai tetti di lamiera, indugiando sulla scritta, bevi Coca-Cola. Scende dai presepi vivi, appena giunge sera, quando musica e miseria diventano cosa sola. Allora? Allora è successo che il respiro del cosmo è rumore. L'ho capito in metropolitana oggi, perché il magnete di tutto è la vita. E madri antiche, ce n'era una, aveva preso possesso del vagone e la metropolitana era diventata come un prato semovente, dove tutta quell'apnea solita dei pendolari si trasforma in una scampagnata. E questa madre, dalla gonna lunga e dai fianchi alteri solidi di amore, dispensa una miriade di figli focacce, frittate, panini e tutto quello che serve per affrontare la giornata, come se la giornata fosse tutta una vita. Ed era come una cometa che sparge intorno a sé le stelle, ed è appunto l'anima latina. Siamo tornati a Rosetta. Oh, stiamo sulla luna, No, sulla cometa stiamo. Sulla cometa. No, proviamo a tornare sulla terra. Grande anima latina di buttafuoco. Vabbè, torniamo sulla Battisti, terra. Battisti, ricordiamolo, Lucio, sì, Battisti. Lucio Battisti. Vai, questo chi è? In quali tasche vai? Quanta gente che te impazzisce, lo sa. Sguardi ingordi, era bellissimo. Soldi, l'avevamo preannunciato noi qui a Mix 24, il multone. Esatto. È arrivato il multone alle banche. Allora, sono in 5, si sono beccati una modica cifra, 3.2 miliardi di dollari di multe, e hanno manipolato il mercato dei cambi. Non si fa, queste cose non si fanno. I nomi UBS, RBS, Citi, Hong Kong Shanghai Bank, JP Morgan, sono sempre quelli poi in fondo alla fine, che hanno che cosa? Le mani e gli operatori e i terminali su un piccolo mercato. In fondo sono transazioni che valgono solo 5.3 trilioni di dollari. Vabbè, al sono giorno. Numeri che è inutile dare, perché al giorno non li diamo neanche così, tanto poi siamo in Italia, hanno tutti i numeri così a casaccio, si fanno le leggi, poi si cambiano. Vabbè, però insomma questa è una cosa grave che in qualche maniera è stata punita, quindi bene così. Altro? Sì, altro. Non è Battisti Buttafuoco, però questa. Senti, senti come pompa, senti. Disco. Allora, pushing on, perché? Perché qua, insomma, c'è un po' di roba nel Pacifico. Direi che il futuro si è spostato tutto là. C'è stato l'accordo sul clima, ne hanno parlato i GR, i giornali stamattina magnificano, in realtà bisognerebbe leggerlo forse per giudicarlo, però aspettiamo di leggerlo, noi che proviamo a leggere appunto i documenti. Intanto Alibaba, in Cina, ha realizzato il record di vendite online in un solo giorno, sempre per dare un po' di numeri, per far capire la dimensione delle cose della contemporaneità. Sai quanto? In un click day? Quanto? 9.3 miliardi di dollari in un giorno. Un click day. Yes. E insomma, l'anno scorso, ti ricordi, avevamo celebrato quello dei 5.8 miliardi, quindi sono andati avanti di 4. E sono numeri mostruosi, ovviamente, e questi sono i numeri della realtà, sono i numeri della Cina, un mercato gigantesco nel quale noi ci siamo poco. In Giappone, intanto, sempre per restare nel Pacifico, tu sai che io guardo con grande attenzione quello che fa Shinzo Abe, insomma dovrebbe slittare l'altro aumento previsto dell'IVA, era già aumentata e ha fatto calare un po' i consumi, come sapete, e Abe è anche pronto alle elezioni anticipate. La borsa di Tokyo è salutato. È pronto o ha paura? Perché mi sembra... No, le chiamerà lui, sì. Credo che le chiamerà lui, sì. E la borsa di Tokyo ha festeggiato perché 7 anni è il valore più alto da 7 anni, insomma, quindi il futuro è là, caro Giovanni. Noi qua di andare nel Pacifico dobbiamo sentire, gestirci un po' il declino. La Tardelli dove ci porta oggi? O la Tardellona. Con una quota rosa d'eccezione, la divina Aretha Franklin, con Non ci sono montagne abbastanza alte. Capito? Non esistono montagne abbastanza alte per non essere superate, anche se si parla di clima. All'APEC è stato raggiunto un accordo tra America e Cina e tra i vari che me dai che te do sono finite in mezzo le emissioni di CO2. Bene, perché non c'è niente di più globalizzato e comunicante del clima, altro che social network oppure le borse che tanto piacciono a Mario. Detto questo, vi lascio con una novità assoluta, cioè una cosa che i nostri politici non dicono veramente mai quando parlano di ambiente, natura, eccetera. Queste sono le parole del ministro dell'ambiente Galletti, che ha pronunciato ieri a proposito del dissesto idrogeologico. Il rispetto del territorio passa attraverso anche il fatto di non costruire abusivamente in zone dove non si può costruire. Il segnale che lo Stato dà è mai più condoni edilizi. Vabbè, l'abbiamo sentito mai. Una novità. Una novità. Una cosa grossa. Noi andiamo con il salamino. Noi duri, coi volti scuri scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri. Noi duri. E chi sono i duri? Boh. Allora, Capezzone forse? Nah. Augusto Minzolini? Nah. E dunque Raffaele Fitto, capo dell'opposizione interna in Forza Italia? No. Allora, il più duro di tutti è ovviamente il cavaliere Silvio Berlusconi, che è stato fotografato ieri mentre andava all'ufficio di presidenza di Forza Italia, quindi mentre andava a casa sua. Un bel cappello. Un cappello proprio particolare, dallo stile brividoso. Sembrava stesse lì per cantare e pensare che eri piccola. però non si è appalesato il musetto di Francesca Pascale, la sua fidanzata, però qui adesso violando un diktat abbiamo al telefono Dudu. Hai indovinato? No. Io l'ho evocato l'altro ieri. È lì, che soddisfazione. Vuoi già fargli una domanda? Non lo so. Eccolo. Ciao Dudu. Buongiorno Dudu. Buongiorno Dudu. Posso fargli la domanda? Sì, prego. Guarda, ne approfitto perché insomma, dall'interno sapere questa notizia è molto importante, ma Dudu, il patto regge o non regge? Il patto regge, altro che se non regge. Ha detto una cosa che non posso tradurre. Ah, non si può dire. Ma dice che dopo Luxuria può dire tutto. Ma insomma, ecco, sì, il patto regge e lui vuole partecipare alle nostre Quirinarie perché ha sentito i padroncini dire chi sarà veramente il candidato. Sì. Ah, perfetto. E chi è? Fedele Confalonieri. Grandi suonate al pianoforte. Sempre meglio che se fosse Veltroni. Dudu. Beh, Dudu dice lo candida. Che Veltroni invece lo vuole come segretario generale al Quirinale. Non Letta? No. No, questa è una notizia. Non è Letta? No, dice che zio Gianni è stanco. Ma vabbè. Chi era che scriveva stamattina? Veltroni, Quirinale, Letta, Padellaro. Antonio. Allora, sì, può essere, no? E Dudu ha detto no. No. Vabbè. Mix 24. Il canzoniere. Volgete gli occhi a veder chi mi tira, per chi non posso più venir con voi, e onoratel che questi è colui che per le gentil donne altrui martira. 800 24 00 24, il numero verde 349-238-6666, l'SMS, provate a scrivere, invitate, perché sennò butta fuoco, si suicida, che non indovinate mai. Ma insomma, non riconoscere questi versi. Lo so, sommo però, poeta. Vai con la bolla. Sommo poeta. Sommo poeta. Senti. Sommo cantante. In the world. Ma chi è Berlusconi? Sì. Questo fa tutto molto 007. In realtà c'è il fattore tempo, la parola tempo qui, perché io non vedo l'ora di dirvi che un orologio è stato venduto a 24 milioni di dollari. Tu te lo potevi permettere, Pietrangelo? No, sì. Sì, forse no. Che cos'è? È un Patek Philippe e si chiama Henry Graves Super Complication. E già l'ultima cosa, Super Complication, è molto divertente. Ha 24 funzioni, è stato progettato nel 1932, è un prezzo che è un record assoluto, mi pare, per un orologio, è bellissimo. E ovviamente è un orologio da tasca. Vabbè, ok. In tutti i sensi. Lasciamolo in giro questo orologio. È molto bello. L'ultimo salamino della giornata. Il mistero della panda rossa. Il mistero della panda rossa avvolge di tenebre la trasparenza e la legalità in Campidoglio. Signor sindaco, aspetti, non fuga. È un reato, signor sindaco, aspetti. Allora, paga le multe o non le paga Ignazio Marino? Mischino, questa specie di crocetta che è il sindaco di Roma, non è indovina una, non la indovina, dovete vederlo, bellissima la scena quando con le Iene arrivano e lui che inforca la bicicletta e poi cade, poi risale e ricade, insomma, e ormai siamo in una gag. Però io voglio sottoporre a voi due un giudizio, dovete dirmi se state dalla parte del sindaco o del vigile. Ascoltate. Prego, favorisca la patente, per favore. Ma tu sai chi sono io? Tu non mi riconosci o fingi di non riconoscermi? Dispiacente, ma io in servizio non riconosco nessuno. Che? Non ha rinnovato neanche il bollo? Ma il bollo ce l'ho qui, nel libretto di circolazione, vede? Non ho fatto in tempo a ritagliarlo e ad applicarlo. Il regolamento prevede che il bollo deve essere applicato qui, sul parapetto. Oh, piano! Posso andare? Comunque resta sempre il fatto più grave, l'eccesso di velocità. Favorisca un qualunque documento, prego. Beh, a questo punto sai che ti dico? Signor sindaco, aspetti, non fuga! È un reato, signor sindaco, aspetti! Stupenda questa scena. Vittorio De Sica, Alberto Sordi nel film Il Vigile. Allora, conquistate col vigile e col sindaco. È difficile scegliere qua. In quel caso io starei col sindaco, in questo caso. Sì, no, io in quel caso starei con Alberto Sordi. Come Colbert? Sì. Bah, sì, non lo so, io non lo so. No, No, io potrei rispondere come Sordi lì. Dispiacente, ma non do giudizio in servizio. Non lo so. No, francamente, ma a me Marino mi sembra. Vabbè, però fa pena, poverino. Ormai. Vabbè, insomma, è una situazione complicata. Peggio di crocetta. Ieri ha fatto fare tardi a Franco Battiato, che doveva presentare il suo libro, e gli ho detto: ma che ci fai? Tanto è peggio di Crocetta. Non vi dico le risate dei funzionari del municipio, ormai non ne possono più. È una situazione complicata. Difficile. Ma com'è questa storia delle multe, per esempio? Tu l'hai capito? Ma io non ho capito, però mi sembra complessa. Sì, diciamo. Mi sembra molto complessa. Intanto nel 1960 gli agenti del Mossad hanno arrestato Adolf Eichmann. Oggi la seconda puntata. Dopo 15 anni Eichmann era a Buenos Aires e lì finisce la sua fuga. Nella puntata oggi appunto raccontiamo la dinamica, la storia della caccia e poi il processo all'ideatore della soluzione finale. Marina Milone intervista alla fine lo storico Arrigo Petacco. A 100 metri di distanza dalla sua casa gli gridai in tedesco: stia calmo e non le accadrà nulla. Se continua a resistere la dovremo uccidere. Nessuna reazione. Allora gli gridai in tedesco: mi capisce? Nessuna risposta. Poi proseguimmo per circa un chilometro e mezzo. Allora lo sentii dire in un tedesco chiaro quanto eccellente: mi sono già arreso al mio destino. E lì ho capito che si trattava del nostro uomo. Gli feci 100 domande alle quali poteva rispondere solo Eichmann. Tutto corrispondeva. Poi alla fine gli chiesi: qual è il suo nome di battesimo? E lui, senza esitare: Adolf Eichmann. Quello fu il momento più esaltante di tutta l'operazione, quando disse: sono Adolf Eichmann.